all artisnya Monata. Ada Ria Mustika, Vivi Ayu, Anissa Rahma, Elsa Safira Neusari, Riri Amora Lalawidi, Leli Juanita Sanchez, Monata.